posso. Professore, che differenza c'è tra la papaya fresca e quella fermentata? Il y a une grande différence parce que la papaya fermentée. C'è una grande differenza perché innanzitutto la papaya fresca, come tutti i frutti, contiene delle vitamine come la vitamina C e altre. La papaya fermentata è un prodotto naturale biofermentato che è stato messo a punto da ricercatori giapponesi. Il procedimento consiste nel prendere il frutto fresco, non ancora del tutto maturo, farlo fermentare con lieviti per diversi mesi e a basse temperature. Allora, a questo punto, le vitamine saranno dunque sparite. La vitamina C, per esempio, non esiste più, ma altri fattori antiossidanti compaiono e soprattutto questi fattori vanno a stimolare le difese antiossidanti dell'organismo e anche le difese immunitarie. Dunque è un prodotto complesso che comprende sia dei prodotti derivanti dal frutto, ma anche dei prodotti elaborati dalla fermentazione. È come la differenza tra l'uva fresca e il vino. C'est comme la différence entre du raisin frais et du vin. Professore, quindi dai suoi numerosi studi si dimostra che la papaya fermentata ha, come lei ci ha detto, proprietà antiossidanti e sembrerebbe in grado di aumentare le difese immunitarie. Effectivement, il y a un certain nombre de recherches faites dans différents laboratoires en Italie, aux États-Unis, en Israël. Effettivamente ci sono numerose ricerche effettuate in diversi laboratori in Italia, negli Stati Uniti, in Israele, che mostrano che questo estratto complesso, prodotto in Giappone, ha delle proprietà antiossidanti che possiamo dimostrare attraverso dei test che permettono di dimostrare che questo prodotto non è solo un semplice integratore alimentare, ma piuttosto un prodotto naturale che nella sua biotrasformazione segue norme farmaceutiche, ma non è un farmaco. Non ci sono, per esempio, come per un farmaco, delle differenze tra diversi lotti, perché il potere antiossidante della papaya fermentata è misurato ogni volta per ogni produzione. La seconda proprietà è che la papaya fermentata attiva alcune importanti proprietà dei nostri globuli bianchi, macrofagi, linfociti, dunque ha un effetto immunostimolante, che possiamo tra l'altro verificare dal vivo sull'uomo quando egli assume questo prodotto. C'è certamente un aumento delle difese immunitarie, è stato anche studiato su bambini che avevano una malattia all'emoglobina che si chiama talassemia. Questi bambini hanno uno stress ossidante importante nei loro globuli rossi. Un'equipe israeliana ha dimostrato che questo prodotto effettivamente diminuiva lo stress ossidante dei globuli rossi in questa malattia. Dunque c'è un certo numero di lavori che dimostra che questo prodotto, certo non ha poteri magici, non è in grado di sopprimere l'invecchiamento, ma può compensare gli effetti dell'invecchiamento sullo stress biochimico chiamato stress ossidante. Lo stress ossidante rappresenta nel corpo umano un eccesso di molecole reattive all'ossigeno in rapporto alle difese ossidanti. Quindi penso che possa compensare, non certo eliminare l'invecchiamento, ma compensare importanti effetti dell'invecchiamento sul corpo umano. Par rapport à nos défenses antioxydantes. Donc je pense qu'il peut compenser, non pas supprimer le vieillissement, mais compenser certains effets du vieillissement. Grazie professore per essere stato con noi, la lascio ai suoi studi e ai suoi lavori. Grazie, buona giornata. Grazie, merci, au revoir. E per oggi è tutto, un saluto e buon pomeriggio da Nicoletta Carbone.